Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizio, ogni giorno a quest'ora su Radio 24 andiamo a cercare, vi raccontiamo le storie della cronaca, i fatti e i personaggi che parlano dell'Italia in controluce. Domani 29 maggio saranno esattamente 25 anni dalla serata di calcio e tragedia, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel in Belgio, dove negli incidenti prima della partita morirono ben 39 persone. Dario Ricci la ricorda così. La Juventus si aggiudica allo stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. Il gol è stato segnato da Michel Platini dopo 11 minuti e 30 secondi. Doveva essere la partita del secolo. Divenne una serata di tragedia e lutto. Bruxelles, stadio Heysel, 29 maggio 1985. Juventus e Liverpool si affrontano per la finale di Coppa dei Campioni. Da un lato i bianconeri di Trapattoni, Platini, Boniek e Paolo Rossi. Dall'altro i Reds, detentori del trofeo, con Grobbelaar, Dalglish, Ian Rush. Sono le 19:15. Manca poco più di un'ora all'inizio della partita, quando nel settore Z dell'Heysel si scatena l'inferno. Gli hooligans inglesi, ubriachi e armati di bastoni, bottiglie, coltelli, caricano i tifosi juventini, in gran parte famiglie. A dividere le due tifoserie una manciata di gendarmi e una rete da pollaio. In seguito alle cariche degli hooligans e all'accalcarsi dei tifosi bianconeri in fuga, il muro di cinta esterno del settore Z crolla. In 5 minuti la tragedia è compiuta. Le vittime sono 39. La partita poi si giocherà lo stesso, per motivi di ordine pubblico. 1-0 per la Juventus, rigore di Platini, con tanto di grotteschi festeggiamenti dei giocatori bianconeri nel dopogara. Otello Lorentini quel giorno era all'Heysel di Bruxelles, con 2 suoi nipoti e il figlio Roberto, medico. Da quell'inferno Roberto non tornerà, travolto dagli hooligans mentre sta prestando soccorso a un ragazzo ferito. Per Otello inizierà così una battaglia tra dolore e oblio, per ottenere giustizia, per far sì che Roberto e tutti i morti dell'Heysel non venissero mai dimenticati. Così Otello Lorentini, oggi a 85 anni, rivive a Radio 24 la sera di quel 29 maggio 1985 all'Heysel di Bruxelles. Sono neanche della Juventus, però i ragazzi erano tutti della Juventus, sicché io ci andavo per fargli compagnia, ecco, e basta. Quindi quando hanno deciso di andare ci siamo andati. Ecco, avevate trovato i biglietti, quindi Roberto era riuscito a trovare i biglietti. Ma non erano quelli che volevo io, e quindi siamo andati in questa curva, invece io volevo andare in tribuna, però ero solo contro 3. Come erano state le ore della vigilia della partita? Bruxelles, tra le tifoserie di Juventus e Liverpool, che clima si respirava e soprattutto i tifosi inglesi come si erano comportati fino allora? No, noi siamo arrivati là il giorno stesso della partita e andando per Bruxelles abbiamo visto delle cose allucinanti. Questa gente erano tutti ubriachi, e insomma già io non mi piaceva molto stare lì. E poi siamo andati allo stadio, il casino è venuto fuori allo stadio quando questi mascalzoni hanno cominciato a tirare sassate, rompere quella specie di una rete da galline, insomma, che si è rotta subito e sono venuti lì, poi è successo quello che è successo. Ecco, in tutto questo il comportamento della polizia belga? No, non c'era la polizia belga, erano 5 e una donna e un cane, non c'era più nessuno, siamo rimasti soli e loro in 5 o 6 che facevano? A un certo punto il muro di supporto del settore Z, dove vi stavate accalcando voi tifosi, crolla. Sì, crolla perché era appoggiato da tutti. Dalla folla che si era radunata laggiù. Lei trovò scampo verso il campo di gioco, di fatto, che era l'unica via d'uscita sicura. Esatto, sono andato via lì perché io il mio ragazzo l'avevo a braccio. Avevo trovato un sistema per tenermi quando questa gente arrivava. A un tratto non me lo so sentito più. Quando ho visto che non c'era più, sono andato anch'io. Ho rischiato di pigliare, poi finalmente ho avuto un attimo per uscire e sono andato laggiù nel campo, sventolavo, sventolavo un segnale, insomma, che, per vedere se mi rivedevano qualcuno dei miei ragazzi, no? E c'erano questi miei ragazzi che mi hanno detto: corri, corri, che Roberto sta poco bene. Insomma, poi quando sono arrivato io ho capito subito che lui non c'era più. Da quella tragedia nacque poi un processo, no? Un processo che vide in prima linea lei e l'associazione dei familiari delle vittime da lei stessa fondata. Un sì. Processo che ha dato un risultato importantissimo, decisivo, no? Sì, finalmente siamo riusciti, dopo 6 anni e mezzo abbiamo vinto. E questo mi ha fatto molto felice. Il risultato più importante di quel processo è che da allora l'UEFA venne inchiodata alle proprie responsabilità, venne condannata nel processo d'appello e da allora è pienamente responsabile di tutte le manifestazioni sportive che organizza. Insomma, abbiamo vinto, però è stata dura, 6 anni e mezzo. Sono passati 25 anni da quella notte, per lei oggi cos'è il calcio? Riesce ancora a vedere una partita di calcio? Guardi, io lavoro a gratis, intendiamoci, alla Federazione Calcio d'Arezzo, però io le partite non le ho viste più. Italia in controluce. I fine settimana di Carpineti, siamo in provincia di Reggio Emilia, saranno all'insegna della narrazione dal 29 maggio, quindi da domani fino al 4 luglio. Autori, musicisti, attori, artisti, testimoni e cronisti nei luoghi del teatro civile del paese, tantissimi ospiti per 2010, il tempo delle storie e i luoghi per raccontarle. E questo è il nome della rassegna. Adriana Fracchi ha intervistato il direttore artistico Patrick Fogli. L'idea è nata da una riflessione su tante rassegne, tanti festival che si vedono in giro e a cui è capitato anche di partecipare, e sui luoghi in cui lo facciamo. Il posto è talmente tanto bello che sembrava brutto veramente non farci niente e non farlo conoscere anche attraverso qualche tipo di evento, e dall'idea appunto di fare qualcosa di diverso, di sparigliare un po', quindi non un festival, però neanche limitarsi a un genere letterario piuttosto che a un tema specifico. Semplicemente mettere insieme qualcuno che ha qualcosa da dire e far conoscere la gente direttamente da chi ha qualcosa da dire la storia che ha da raccontare. Quindi se parliamo di mafia, i magistrati antimafia, se parliamo di passato, di nostro recente passato, Umberto Ambrosoli, tanto per fare un esempio fra tutti, e se parliamo di storia da raccontare, teatro di narrazione, quindi per esempio Lella Costa che sostanzialmente inaugurerà al festival. Ecco, 2010 perché? Perché stiamo cercando di fare qualche cosa che sia perfettamente calato nella realtà, quindi che rappresenti un po' oggi, che sia un'occasione di riflessione anche sul mondo che ci circonda. Quindi l'occasione migliore era proprio partire dall'anno in cui cominciamo e mettere l'anno in cui cominciamo al centro della narrazione. Cercare di raccontare anche la realtà, credo che sia un mondo, quello in cui viviamo, che vale la pena di essere raccontato e che forse non viene raccontato quasi mai per quello che è, spesso per quello che si vorrebbe che fosse, ecco, mettiamola così. Quindi cerchiamo di raccontare la realtà che ci circonda, cerchiamo di raccontarla a 360 gradi, in maniera anche diversa, quindi avremo attori, avremo anche disegnatori di fumetti, avremo gente che suona, avremo gente che parla, avremo gente che scrive. Cerchiamo di girarci un po' intorno e di raccontarla da tutti i punti di vista. Quanto è forte il desiderio delle persone di sentire raccontarsi delle storie ancora? Secondo me tanto, io lo vedo anche col mio lavoro di scrittore. Secondo me c'è il desiderio di sentirsi raccontare delle storie e c'è tanto il desiderio di raccontarle anche. Io ho visto sia da parte delle persone che abbiamo invitato, che hanno praticamente tutti accettato, noi siamo molto contenti perché più o meno abbiamo fatto il programma dei sogni, non avendo ricevuto sostanzialmente nessun rifiuto se non proprio impedimenti fisici alla partecipazione o impegni già presi, e sia da parte delle prime persone che hanno visto il programma, che hanno visto la pubblicità, le locandine, insomma, che hanno avuto contatto con quello che sarà poi 2010, un grande entusiasmo, una grande voglia di ascoltare queste storie. Secondo me c'è voglia di fare qualcosa di diverso, c'è voglia di ascoltare storie differenti, quindi da quel punto di vista stiamo incrociando le dita. Secondo me fortunatamente c'è ancora voglia di sentirsi raccontare storie. Forse c'è voglia di sentirsi raccontare qualcosa di un po' fuori dal coro, ecco, insomma, qualcosa che assomiglia un pochino di più a quello che uno vede tutti i giorni. Sono tantissimi gli ospiti e di tutte le tipologie umane, insomma, appunto dal giornalista al musicista, all'attore. Sì, gli ospiti effetti, adesso vado a memoria, dovrebbero essere 63, più o meno siamo in quell'ordine di grandezza lì. Abbiamo appunto teatro di narrazione, quindi avremo Lella Costa, avremo Giulio Cavalli, avremo Massimo Carlotto, sia in qualità di scrittore sia in qualità di autore, in questo caso anche interprete teatrale. Avremo lo spettacolo che Carlo Lucarelli e Stefano Tassinari hanno tratto da Guernica di Lucarelli. Avremo un incontro sul giornalismo d'inchiesta con Gianni Barbacetto, Ferruccio Pinotti, Antonella Beccaria con Carlo Bonini. Avremo Milena Gabanelli che con l'ex direttore generale della RAI, Pierluigi Celli, e l'onorevole Mattuca parlerà, insomma, di un argomento che in questi giorni è abbastanza al centro dell'attenzione, insomma, il rapporto tra il mondo dell'informazione e il potere. Avremo Silver, il papà di Lupo Alberto, in una giornata interamente dedicata al fumetto, perché facciamo anche un'esposizione di tavole di fumetti che porteremo avanti per tutta la rassegna. Parleremo della strage di Piazza Fontana, avremo Marco Travaglio, insomma ce n'è, ecco, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Scriveteci controluce@radio24.it. Ci sentiamo lunedì prossimo.